Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della fotografia che ha scattato l'Istat sia sulla pressione fiscale che sul deficit che sulla spesa per il debito italiano. Il dato è riferito al quarto trimestre del 2014 e però fotografa un insieme di elementi assolutamente di rilievo. In primo luogo, la pressione fiscale, che nel quarto trimestre dell'anno scorso, quindi nell'ultimo trimestre, è salita al 50,3% complessivamente. Nell'intero 2014 è risultata pari al 43,5%, in aumento di 0,1 rispetto al 2013. Come è stato possibile? Beh, perché oltre, non c'è stato solo l'effetto degli 80 euro, ci sono state tutte le addizionali locali, ne abbiamo parlato molte volte, regioni e anche comuni. Pensate alla pressione sulle tasse sulla casa, come conseguenza anche dei mancati trasferimenti. Il problema è che per il cittadino italiano, per la famiglia italiana, poco cambia se le tasse le devi pagare come addizionale locale, IRPEF, o come un'IMU più alta, o TASI, oppure se le paghi come IRPEF nazionale. Quello che conta è la pressione fiscale complessiva, e su questo non ci sono dubbi, è rimasta non solo invariata, ma anche leggermente cresciuta dello 0,1%. Poi il deficit resta al 3%, quindi come previsto dall'accordo di del patto di stabilità, le uscite sono state in aumento del 2,6%, le entrate dello 0,8%, gli interessi, la buona notizia è questa: quanto paghiamo di interessi sul debito, con i rendimenti dei titoli di Stato ai minimi storici, è chiaro che paghiamo anche poco, o paghiamo meno di interessi sul debito. Abbiamo pagato sostanzialmente quasi il 5% in meno, da 20 miliardi e 700 milioni di interessi che abbiamo pagato nell'ultimo trimestre del 2013 siamo scesi a 19,7 miliardi, quindi un miliardo in meno di interessi sul debito abbiamo pagato nell'ultimo trimestre dell'anno. I profitti delle imprese calano ancora e toccano il livello più basso dal 1995, da quando li stiamo misurando come dato statistico. Il potere d'acquisto delle famiglie è stato fermo in tutto il 2014, è salito rispetto all'anno prima, proprio nell'ultimo trimestre, più 0,8%. Anche la spesa delle famiglie è risalita, più 0,5%, ma insomma veniamo da livelli molto molto bassi. Nel 2012 fece meno 1,3%, nel 2013 meno 1,8%. Sono tanti dati che commenteremo nella seconda ora del programma, però a questi dati sono dedicati oggi 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore. La firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Vi ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La pressione fiscale continua a crescere. L'Istat dice che nel 2014 il rapporto tra imposte e contributi e PIL è salito al 43,5%, con un piccolo incremento rispetto all'anno precedente. Il governo ora si affretterà a ricordare che quello dell'Istat è un dato che va interpretato, perché se si considera l'effetto del bonus degli 80 euro, bonus che ai fini contabili è classificato come spesa e non come taglio di tasse, allora il conto cambia e la pressione fiscale del 2014 risulta leggermente più bassa dell'anno precedente. E naturalmente è vero, come è vero che alcuni sforzi si vedono anche nel 2015, perché oltre alla conferma del bonus degli 80 euro, che abbiamo detto è uno sconto fiscale, ci sono anche il taglio di alcuni miliardi di IRAP e lo sconto contributivo per le imprese che assumano, come sappiamo però sono sono ancora poche. Quindi sulla pressione fiscale le cose sembrano andare leggermente meglio, ma è fuori discussione che il peso effettivo di tasse e contributi sia spropositato. In molti casi si supera il 60-65% degli utili delle imprese, ad esempio. Il fisco pesa troppo, pesa sugli onesti, rappresenta un freno per la ripresa economica. Per cambiare direzione, lo sappiamo, non servono giochi di prestigio, serve avviare un piano credibile di taglio della spesa pubblica e di lotta all'evasione fiscale, per poi destinare alla riduzione delle tasse ogni euro risparmiato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Devo dire che concordo in tutto sull'analisi di Salvatore Padula, così rispondo anche a un ascoltatore che dice: ah, i dati negativi li commentate alla fine per andare contro il governo. Ma guardi, lei si fa un po' troppi film, li abbiamo appena commentati, e quando dico nella seconda parte vuol dire che ne parleremo per mezz'ora. Non so, se vuole anche darmi le misure dei blocchi che devo utilizzare, ci fa un favore, così lavoro un po' di meno. E guardi che la seconda ora del programma non è meno ascoltata della prima, per cui sono tutte così atti un po' onanistici che lei compie. Detto questo, mentali chiaramente, detto questo, è vero che dal punto di vista dell'Istat gli 80 euro messi da Renzi in busta paga sono una spesa e non una riduzione della pressione fiscale, che se uno va a guardare questo, la pressione fiscale in realtà è leggermente calata, ma resta il dato di fondo che è ancora troppo elevata, elevatissima, e resta il dato di fondo che l'invito al governo è di essere molto attento prima di, io capisco anche l'esigenza politica di essere ottimisti, però attenzione, perché i dati che arrivano sono ancora fortemente in chiaroscuro. Ci sono delle cose positive, le ricordavamo, leggermente in crescita dopo i cali fortissimi, i consumi delle famiglie, la spesa delle famiglie, però sul dato industriale ancora i segnali che arrivano sono molto molto contraddittori. E devo dire che, come scrive oggi anche Luca Ricolfi sul Sole 24 Ore, è tra virgolette una campagna che il Sole 24 Ore sta portando avanti da giorni. Pensate, quando c'è stato qui il ministro Poletti due giorni fa, Gio Borienta, di chiedere al governo e nello specifico al Ministero del Lavoro dei dati certi, perché questo embargo sui dati del lavoro che cita Luca Ricolfi oggi in prima pagina su Sole 24 Ore ha ragione, deve finire, dateci dei dati, perché sennò voi continuate a diffondere i dati sulle nuovi contratti specificando che poi su 150.000 79.000 sono a tempo indeterminato. Però avete in mano probabilmente anche i dati per capire quanti siano nuovi contratti, quanti siano invece semplicemente contratti che vengono cambiati ma non nuovi posti di lavoro. Non lasciate ogni volta la stampa a interpretare, sappiamo anche noi che la maggior parte sono dati di sostituzione di un contratto con un altro, però finitela con questo embargo e iniziate a diffondere i dati, perché sennò non si capisce più nulla con l'Istat. Il governo aveva parlato di un aumento di 79.000 unità dei contratti a tempo indeterminato, però proprio su richiesta Sole 24 Ore è stato fornito anche il dato sulle cessazioni dei rapporti e scopriamo che il saldo positivo si riduce a 45.000 unità. Meglio che niente, ma intanto è diverso dire 79.000 se poi devi levare giustamente quelli che si sono interrotti come contratti di lavoro, e il saldo, che è quello che ci interessa, è 45.000 e non 79.000. Vorremmo anche capire, e mi associo totalmente a quello che chiede Sole 24 Ore, quanti di questi siano nuovi e quanti di questi siano trasformazioni di contratti a tempo già in essere senza un effetto sul livello complessivo di occupazione. Come sta andando febbraio? Che dati inizia a ricevere il Ministero da marzo, quando al 7 marzo invece sì, è entrato in vigore il Jobs Act? Insomma, dateci dei dati, e no, se no il rischio che di accusa di fare propaganda da parte del governo è un rischio fortissimo. Parleremo anche di Pasqua, giusto per non appesantire eccessivamente con i temi una puntata, non dico pre-pasquale perché siamo in diretta anche domani, però per molti Già iniziate per fortuna loro le vacanze di Pasqua. Federalberghi stima in l'85% la quota di italiani che resterà a casa, sia per il maltempo in alcune regioni, ma soprattutto per i motivi economici. Il 49% non andrà in vacanza a Pasqua, ha dichiarato, per motivi economici. Ne parleremo più avanti. In apertura, ahimè, quello che sta capitando a livello internazionale, e mi riferisco non solo al programma nucleare iraniano, ma anche al fronte Yemen, dove c'è un interessamento nello Yemen, nello stretto, nel Golfo di Aden, passano 20.000 cargo all'anno, e quindi c'è una situazione che sta precipitando, è già precipitata in Yemen. I nostri GR24 vi hanno aggiornato sul Kenya, che è un'altra storia ancora. L'ISIS alle porte di Damasco, in alcuni casi non solo le porte, e chiaramente il trattato col nucleare. Lo affronteremo tra un attimo. Ancora invece la borsa, per quello che riguarda il mercato finanziario, -0,1% Milano, -0,1% Francoforte, Parigi +0,2%, Londra +0,30%, l'America +0,34% sul Dow Jones, euro a quota 1,08%, tra i titoli G-Tech +3,90%, UbiBanca +3%, Saipem +2,60%, Fiat dopo i dati auto +1,30%, Campari +1,20%, Autogrill +0,80% come Enel, Green Power. Oggi un po' di realizzi, ma insomma ci stanno tutti. Per Jux -1,70%, Ferragamo perde invece l'1,60%, Eni lo 0,90% come Luxottica, Tods lo 0,80% come Enel. Aggiornamenti rapidissimi sul fronte economia internazionale. Allora, l'80% degli americani vede le disuguaglianze come un problema, e lo ha dichiarato oggi il presidente della Federal Reserve Janet Yellen, mentre da un lato l'amministratore delegato di McDonald's Steve Easterbrook, dopo le varie polemiche sugli stipendi dei top manager in McDonald's e rispetto agli stipendi dei lavoratori normali, ha detto che c'erano stati anche degli scioperi nei lavoratori di McDonald's, ha detto che l'aumento dei salari e la concessione di benefit sono un primo passo, in un articolo sul un messaggio pubblicato sul New York Times, dove ha spiegato le motivazioni che hanno portato McDonald's ad aumentare i salari dei dipendenti. In 90.000 dipendenti, in 1.500 punti vendita negli Stati Uniti, il salario salirà a $9.9 l'ora, dai 9 attuali, un più 10%. Nel 2016 la retribuzione oraria sarà oltre i $10. Non riguardano però i 750.000 lavoratori occupati nei 12.500 punti vendita in franchising. I sindacati chiedevano aumenti fino a $15 l'ora. Il tema delle retribuzioni, fermo restando che nulla c'entra con le retribuzioni del pubblico impiego, ma resta in America perché sono tutti soggetti privati, ci mancherebbe. Però attenzione, quando scoppiata la crisi nel 2008 si è detto che gli stipendi assurdi dei top manager bancari e di molti loro collaboratori erano l'origine di questo eccesso di rischi presi, che si era arrivati a un livello totale di, non dico scollegamento con la realtà, ma quasi, che questi bonus avevano amplificato gli effetti della crisi, i rischi assunti dai top manager. Beh, Wall Street, come temevamo, è tornata a fare esattamente quello che faceva prima, almeno quanto a bonus. Il numero uno di Morgan Stanley, James Gorman, ha guadagnato tra stipendio e bonus $22.5 million, tanto poco non lo so, ma so che è il 25% in più rispetto al 2013. Il 25% in più di uno stipendio già altissimo. Lloyd Blankfein, il numero uno che ha attraversato tutta la crisi, era lì già nel 2007, penso che sia il più longevo di tutti i top manager delle grandi banche d'affari americane. Goldman Sachs, quella che previde il petrolio a 140 prima che scoppiasse la crisi, ad agosto prevedeva tutto il contrario di quello che poi è successo, crollò a $30. Comunque si è portato a casa $24 million con un incremento del 4%. Stabili a $20 million la busta paga di Jamie Dimon, altro che non è cambiato, numero uno di JP Morgan, e John Stumpf di Wells Fargo a $19 million. Europa, la Grecia, sostanzialmente c'è una nuova lista di riforme, 6 miliardi di interventi. Tsipras incontrerà Putin nel frattempo l'8 aprile, firmeranno documenti bilaterali, l'obiettivo è un surplus primario tra l'1,2% e l'1,5% e non il 3%, che già comunque non è poco, ma insomma adesso vedremo. Sulla Grecia, come abbiamo già raccontato ieri, difficile che si arrivi a un accordo prima di Pasqua, anche perché ormai ci siamo. Allora, visto che parlavamo di del fronte estero, iniziamo con Iran e Yemen. Voi direte cosa c'entrano? Beh, non c'entrano nulla in senso stretto, perché una è una trattativa che è in corso a Losanna, i negoziati sul programma nucleare iraniano, che però ha delle ricadute economiche, perché se dovesse finire l'embargo all'Iran, vi sarebbe anche una maggiore produzione petrolifera dell'Iran sul mercato. L'altro invece è il tema dello Yemen, che è un tema di carattere più geoeconomico o geopolitico, perché insomma lo Yemen ha una posizione strategica per il commercio e comunque manca solo un altro pezzo di Medio Oriente fuori controllo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Radio 24 e di Focus Economia nel sito di Radio 24 per scrivere e intervenire nel programma. Stavo parlando e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Vittorio Emanuele Parsi, che è docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, la sentiamo un po' male, vediamo di in regia per favore di perfezionare la linea. Mentre stavo parlando, dicevo, sono usciti due flash d'agenzia che leggo assieme a voi. Annunciata conferenza stampa per oggi sui negoziati a Losanna in corso sul nucleare iraniano, non è confermata né l'ora né i partecipanti, ma questo vuol dire che ci sono notizie da dare e dovrebbero essere positive, nel senso che sempre le agenzie stanno battendo la notizia che Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto ormai un'intesa sui contenuti dell'accordo quadro in discussione, ma non ancora su cosa annunciare o non annunciare pubblicamente in questa fase. Lo riferiscono fonti diplomatiche occidentali che vogliono restare anonime e sono presenti a Losanna. Professor Parsi, da questo punto di vista c'è un'evoluzione, quindi, proprio in questi istanti. In ballo c'è chiaramente un fronte politico e geopolitico, ma anche, come ricordavo, un fronte economico, professore. Sì, c'è un fronte economico, per quello che ricordava lei, c'è la possibilità di riemettere sul mercato il petrolio iraniano, che è un petrolio di buona qualità e di basso costo di estrazione, quindi un petrolio pregiato. E questo però si collega anche all'altro fronte che lei stava citando, che non è casuale che questa offensiva saudita nello Yemen intervenga nel momento in cui si ha un passo dall'accordo tra Iran e sostanzialmente Stati Uniti sulla questione nucleare. Ed è chiaro che questa offensiva contro i ribelli sciiti in Yemen tende a rendere, diciamo così, più costoso l'arruolamento dell'Iran in maniera esplicita nel fronte anti-ISIS, nel quale invece i sauditi, come sa, militano, diciamo così, estremamente, ma contro voglia. Allora, ci ha raggiunto in collegamento anche l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buonasera. Buonasera a voi. Grande conoscitore di quell'area anche. Leggo assieme a voi però i flash che l'agenzia stanno battendo. Se Dio vuole saremo a Teheran domani, così ha risposto il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif ad un giornalista che gli chiedeva quanto sarebbe durato il negoziato. Quindi, da quello che capiamo, hanno chiuso, lo dico sia a Parsi che Alberto Negri, perché se il ministro inizia a dire che se Dio vuole saranno a Teheran domani, vuol dire che un accordo, Alberto, lo chiedo anche a te, un accordo in questi istanti lo stanno comunicando di fatto, Alberto. Ma io credo che innanzitutto l'accordo non finisce oggi. No, certo. È il 30 giugno la scadenza di questo negoziato. Oggi, il 31 marzo, avrebbe dovuto concludersi, come dire, la fase politica, cioè una dichiarazione politica di intenti per poi arrivare ai dettagli dell'accordo che dovrebbero essere appunto resi noti a giugno. Certo, nessuno vuole una rottura, questo è evidente, perché una rottura significherebbe un grave insuccesso per la politica estera di Barack Obama e rappresenterebbe anche un grave problema per il presidente iraniano Rouhani, che deve portare a casa qualche cosa a Teheran. E che cosa soprattutto? Un programma almeno accettabile di annullamento, di cancellazione delle sanzioni. Come si diceva prima, l'Iran è una grande potenza energetica, è il secondo paese al mondo per riserve di gas e al quarto posto per riserve di petrolio. È un paese di 80 milioni di abitanti con un grande apparato industriale ed è uno soprattutto dei pochi paesi stabili della regione, che oltretutto combatte contro il califfato, contro lo Stato Islamico, e quindi è strategico se si vuole in qualche modo raddrizzare il caos mediorientale. Allora, su questo già lo accennavano sia il professor Parsi che Alberto Negri, quarto paese al mondo per riserve di greggio, ha 157 miliardi di barili stimati di riserve, esportava prima delle sanzioni 2 milioni e mezzo di barili al giorno, adesso ne esporta poco più di 1 milione, quindi la fine dell'embargo a spanne dovrebbe portare a 1 milione in più di barili di greggio sul mercato, che per noi, dico in maniera un po' così... miope, se vogliamo, è una buona notizia perché contribuirebbe a mantenere il prezzo del petrolio basso, se tanto mi dà tanto. Visto che stiamo parlando di Iran e già Alberto Negri introduceva il secondo tema, professor Parsi, c'è in tema di petrolio un attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb tra Yemen e Djibouti passano 3.800.000 barili di greggio al giorno destinati principalmente al mercato europeo, passano comunque nel Golfo di Aden 20.000 cargo all'anno. Lo dico perché lo Yemen può sembrare un caso più remoto e più esotico, ma non dimentichiamo che anche Aden e l'intera area era un punto importante geopolitico e anche geoeconomico per gli Stati Uniti stessi, professor Parsi. Sì, Aden è stato fino... L'abbandono di Aden negli anni 60 è stato assegnato il passaggio da parte degli inglesi, ha segnato il passaggio di testimone tra Inghilterra e Stati Uniti nel ruolo di garanti di tutta l'area, quindi un punto non solo economicamente importante ma significativo anche dal punto di vista della storia, dell'equilibrio politico di quella regione. È anche vero che in quell'area, al di là del transito, si è scatenata la reazione saudita, perché i sauditi e gli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo hanno chiarito in maniera molto brutale che non accetteranno nessuna forma di ingerenza iraniana nel sud della penisola arabica. Dal punto di vista di Riyadh, quello che sta avvenendo in questi anni è la saldatura, diciamo così, potenziale di una tenaglia, quindi non solo la famosa mezzaluna sciita che dall'Iran attraverso l'Iraq e la Siria e il Libano chiuderebbe, diciamo così, a nord il tentativo di penetrazione egemonica saudita nel Levante, ma adesso anche un'altra ganascia che potenzialmente proprio dallo Yemen, l'unica repubblica sotto la penisola arabica, l'unico paese che non ha risorse di petrolio e di gas, un paese con un'importante minoranza sciita, tutto questo agli occhi dei sauditi è come il palesarsi di un incubo geopolitico gigantesco, un incubo più immaginato dal punto di vista che sostanziale, ma per i sauditi evidentemente da valere il gioco di tendere sempre di più rapporti con gli Stati Uniti e saldare d'altra parte sempre di più con Israele, che è l'altro paese ossessionato dall'Iran. Quindi il rischio tenaglia che viene molto percepito dai sauditi di avere l'Iran e la parte sciita a nord, lo dico, i sauditi sono chiaramente sunniti, e una enclave, comunque una forza sciita rappresentata dalla Yemen a sud. In effetti, se uno guarda la mappa geografica, assomiglia un po' a una pinza, a una tenaglia, mettiamola così. Scrive uno ascoltatore: il fatto che l'Iran minacci ogni giorno di seminare Israele non interessa più a nessuno, è più importante il petrolio. No, guardate che il ragionamento sull'Iran non è tanto sull'importanza del petrolio. Con un petrolio 49, anche se l'Iran non esportasse 1 milione di barili in più al giorno, non cambierebbe molto in questo momento, ce n'è tanto di petrolio. E mi ricollego ad Alberto Negri, quanto si diceva prima sul ruolo dell'Iran in un'area, neanche una regione, un'area che sta oggettivamente saltando per aria. Adesso abbiamo l'ISIS alle porte di Damasco, anche se i servizi segreti italiani dicono che ha difficoltà a reperire risorse, e meno male. In Kenya tutta un'altra vicenda, però pure lì abbiamo una università sotto assedio. Lo Yemen è sfuggito di mano. Alberto Negri, qui non è il problema del petrolio iraniano, vorrei essere chiaro. Il problema è del peso, che così come con la Siria l'America ha dovuto fare retromarcia perché ha capito che tra due mali, meglio il male minore, bruttissimo dirlo per le atrocità che ha commesso Assad, ma tra due mali, tra l'ISIS e il regime siriano, e parlo di regime, meglio regime siriano, qui si sta ragionando in maniera molto da realpolitik sul ruolo che può avere l'Iran. Alberto, allora ti do una notizia: la Tunisia, colpita ma non piegata dall'attentato del Bardo, sta correndo ai ripari e ha fatto il passo decisivo, cioè ha riannodato le relazioni diplomatiche con la Siria per dare la caccia a centinaia di tunisini addestrati per fare la guerra al regime di Bashar Assad, che adesso tornano in patria per esportare la jihad. Secondo un rapporto dell'ONU recentissimo, sono oltre 25.000 i combattenti stranieri provenienti da più di 100 nazioni che si sono uniti ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico e ad altri gruppi terroristici, dall'Iraq alla Siria, all'Afghanistan, alla Libia. Qui quindi ci troviamo di fronte oggi a una sorta di serpente che si snoda sulla carta geografica, che va dall'Afghanistan alla Mesopotamia, dalla penisola arabica al Corno d'Africa, dal Maghreb alla Nigeria, che è questo fenomeno del jihadismo. Una domanda però sorge spontanea, mi sembra, in questo caos: chi combatterà questo terrorismo? La mia risposta, forse provocatoria, un po' provocatoria, è questa: sono gli stessi stati che in qualche modo lo hanno alimentato in questi anni. Cioè, se non si arriva a degli accordi politici che poi portino in qualche modo delle azioni concrete sul campo, non si arriva da nessuna parte. Vi faccio un esempio: oggi l'Arabia Saudita bombarda i ribelli sciiti Houthi nello Yemen, dove c'è in corso questa lotta tra sciiti e sciiti, una guerra per procura tra Iran e Iraq. Bene, neanche una piccola bomba viene sganciata su Al-Qaeda, che oggi ha liberato 300 prigionieri dalle carceri. Capite qual è il problema? Mm-hmm. Il problema è che o ci si mette d'accordo con una volontà politica di combattere davvero il terrorismo e il jihadismo, oppure non si farà. Chiaro. C'è un secondo problema: tra noi e loro, noi non siamo i buoni e loro i cattivi. Attenzione, questo Occidente è alleato con paesi come l'Arabia Saudita, come la Turchia del Golfo, che hanno alimentato i gruppi radicali islamici. Quindi in qualche modo dobbiamo anche noi vedere molto, in maniera molto dettagliata e molto attenta, le nostre politiche. Allora, vorrei chiudere con il professor Parsi, l'analisi molto lucida come sempre di Alberto Negri, che è più spesso là che qui e conosce bene quei paesi. Guerra per procura tra Iran e Iraq nello Yemen mi piace, o Iran e Arabia Saudita nello Yemen mi piace moltissimo come espressione. Dice il professor Parsi, Alberto Negri: o qua decidiamo che è più importante combattere l'ISIS e Al-Qaeda dello scontro che esiste da sempre tra sciiti e sunniti, quindi tra Arabia Saudita e Iran, e l'Arabia Saudita e i paesi che hanno di fatto finanziato ISIS e Al-Qaeda si mettono in testa che devono sganciare le bombe anche lì e non solo contro gli sciiti, oppure questa guerra noi possiamo fare gli accordi che vogliamo, ma questa guerra poi chi va sul campo a combatterla? E occorre che anche l'Occidente, che ha stretto rapporti con l'Arabia Saudita e con il mondo sunnita, chiarisca, imponga la sua voce verso questi paesi, perché se no possiamo fare mille dichiarazioni di intenti, ma obiettivamente le guerre senza avere qualcuno sul campo che le combatte ancora non le hanno inventate. Professor Parsi. Non c'è dubbio, senza l'arruolamento, diciamo così, dei paesi sunniti non stiamo molto lontano, ma è anche vero che questi regimi che governano i paesi in questo momento da tanti decenni, è estremamente difficile smuoverli e portarli a collaborare in maniera attiva. Noi possiamo fare delle pressioni, credo che le stiamo facendo, credo che le aumenteremo. In realtà la forma di pressione maggiore che stiamo facendo è sdoganare l'Iran. È questo che in qualche modo stiamo cercando di usare come arma di pressione. E a questa pressione però come hanno reagito appunto i Paesi Uniti? Alzando loro volta la posta, provocando questa escalation nello Yemen. L'altra settimana la Lega Araba per la prima volta ha ventilato la costruzione di un esercito comune della Lega, e per fare che cosa? Per combattere forse Al-Qaeda o l'ISIS, ma neanche per sogno, per dare manforte ai sauditi contro gli sciiti in Yemen. Quindi questo è un problema che va affrontato con franchezza e anche con fermezza, ma nella consapevolezza che finché sono quelli i governi con cui ci confrontiamo, non difficilmente riusciremo a ottenere più di tanto. È chiaro che però, questo cosa significa anche rispetto a quello che ci diceva prima il nostro ascoltatore, evitare di cadere nelle trappole della propaganda degli uni e degli altri. L'Iran non riconosce lo Stato di Israele, ma quando non c'è più Ahmadinejad, i proclami di distruzione dello Stato di Israele e quant'altro sono sostanzialmente spariti. Restano rapporti tesissimi. Anche noi non riconosciamo la Palestina, nonostante il fatto che il Parlamento abbia fatto una dichiarazione anodina qualche tempo fa. Ma questo non vuol dire che siamo disposti a distruggere l'entità palestinese o a spazzarla via. Un conto è il riconoscimento e un conto è quello che fai. Quindi su questo deve essere molto cauti, anzi, a mio avviso, l'imbarcare l'Iran proprio è la via anche per spingere quel paese, coinvolgendolo maggiormente, alla moderazione. Però non aspettiamoci che appunto i sunniti della regione siano contenti, certo, siano a guardare quello che facciamo senza cercare di fare di tutto per impedirlo. E lo faranno fino a quando? Fino a quando potranno contare sul fatto che gli Stati Uniti in particolare comunque restano i garanti a sostegno dei loro regimi politici. Quando gli Stati Uniti inizieranno a dire, guardate che non è scritto nella pietra che questo continui se voi ci mettete a sostenere i nostri nemici mortali, allora a quel punto forse qualcosa potrà iniziare lentamente a cambiare. Allora, dalle vostre analisi, e ringrazio quindi il professor Parsi e Alberto Negri, emerge molto chiaramente la difficoltà di gestire al nemico del nemico come mio amico o l'amico del mio nemico come nemico. Perché lo dico? Che è la teoria dei giochi, sostanzialmente, perché come vedete c'è un fronte che noi vediamo, che è il terrorismo islamico, che va combattuto e basta, ma dentro questo fronte per i sauditi è più importante combattere gli sciiti che non combattere l'ISIS e Al-Qaeda. L'America, comunque ha ragione Parsi, garante della stabilità politica dell'area, a partire da quella dell'Arabia Saudita, e quindi le pressioni le può fare solo lei. Imbarcare l'Iran serve per avere, come diceva Alberto Negri, una stabilizzazione, o almeno un soggetto forte in quell'area, e se ho ben capito anche per far capire all'Arabia Saudita che non può continuare a fare esattamente solo ciò che vuole. Detto questo, mi sembra che l'unico appello sia al massimo possibile di realpolitik, che non è cinismo, è realismo, e la minore ideologia possibile in questo momento, perché la situazione si sta complicando di giorno in giorno. Grazie sia a Vittorio Emanuele Parsi che a Alberto Negri. Il meteo. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Buon pomeriggio da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, gli ascoltatori di Radio 24. Situazione al momento abbastanza tranquilla in tutta Italia, vi devo però segnalare un po' di nuvole sulle zone alpine, qualche addensamento anche sul basso Tirreno, con il rischio di locali acquazzoni nelle zone interne della bassa campagna e dell'alta Calabria tirrenica. Però ripeto, in un contesto di tempo buono, finalmente anche con venti meno forti rispetto ai giorni scorsi e con temperature più che gradevoli. Le massime infatti arrivano a toccare localmente anche a superare i 20 gradi. Domani si parte bene, ancora situazione buona, ma tra pomeriggio e sera iniziano ad aumentare le nubi al nord in Toscana per una perturbazione che tra sabato e domenica attraverserà un po' tutta l'Italia. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sul nuovo trebimeteo.com. State ascoltando un programma offerto da... Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mi dice un ascoltatore, complimenti, devo dire che molti fanno i complimenti per la qualità degli interventi di Alberto Negri e Vittorio Emanuele Parsi, glieli girerò volentieri, ogni tanto imbrocchiamo gli ospiti, sono contenti. E dice, perché non invita Sapelli? Guardi, lei oggi è Pasqua, perché alle 18.10 i dati economici e questi proclami del governo, ma allo stesso tempo anche un po' smentiti dai dati, e li affronteremo proprio con Giulio Sapelli. Allora, nel frattempo stanno uscendo anche i dati sulla dichiarazione dei redditi degli italiani. Allora, il reddito medio nel 2013 è di 20.070 euro, leggo assieme a voi le agenzie, crescono il 2% i redditi da pensione ai più ricchi in Lombardia, 23.680 euro, questi sono i dati del Ministero dell'Economia e Finanze. I lavoratori autonomi in media dichiarano 35.600 euro, gli imprenditori, ditte individuali in questo caso, 17.600 euro, lavoratori dipendenti 20.600 euro di media di reddito dichiarato, pensionati 16.280. Allora, la borsa prima e poi il resto del programma. Dicevo, giornata oggi meno 0,2 a Milano, più 0,2 a Parigi, meno 0,2 a Francoforte, più 0,1 a Londra. Si capisce che insomma una giornata di quelle che non passeranno negli annali della storia dei mercati finanziari. Euro a quota 1,07, pochi spunti, dicevo. Calma piatta a Piazza Affari potrebbe essere il titolo per un film, ma è anche l'introduzione a Ceo Condi nella Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Vabbè, G-Tech, ultimo giorno del titolo, si è un po' risvegliato, più 3,75%. G-Tech che poi si quoterà da martedì a Wall Street, no? Dopo il consolidamento con IGT. Sì, c'era, insomma, prende corpo definitivamente la fusione con IGT, il titolo viene ritirato da Piazza Affari, dove sostanzialmente si trasferisce a New York, il suo posto nel FTSE MIB verrà preso da Ansaldo STS, e diciamo che oggi in parecchi hanno un po' scommesso su G-Tech, insomma qualcuno magari crede che possa succedere la stessa cosa che è accaduta con FCA, che da quando è sbarcata a Wall Street ha visto sostanzialmente raddoppiare il proprio valore. Bene, anche oggi Saipem più 2,40 e UbiBank più 2,80%, ne parliamo dopo il traffico. Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta Focus Economia. Allora, Ceo Condi, dicevamo, oltre a G-Tech, Saipem e UbiBank. Eh sì, Saipem festeggia la joint venture in Africa, che ha dato vita a Saipem Dangote, che è sostanzialmente, diciamo, una nuova entità con cui la società potrà operare, in particolare nell'area subsahariana, e tutti sappiamo quanto è importante in territori come questi agire con un partner locale. E quindi il titolo oggi è cresciuto del 2,4%. Per quanto riguarda UbiBank, invece, abbiamo diciamo un report molto favorevole da parte di SI. Gli analisti sottolineano diciamo le potenzialità della banca, invitano a comprare il titolo, e soprattutto in tema di popolari sottolineano come le prospettive per UbiBank siano molto importanti, molto significative, anche se essa non verrà coinvolta nel processo di consolidamento, cioè di fusione con altri istituti popolari. Ancora tra i peggiori invece oggi UX, vabbè, meno 2,45, ma con la corsa che ha fatto non intanto negli ultimi due giorni, ma anche nelle settimane precedenti ci sta tutta. Ferragamo meno 2,30, Tod's meno 1,12, Luxottica meno 1,1%, deboli gli energetici con Eni meno 1 e Enel meno 0,70%. Ancora Fiat bene con i dati sulle immatricolazioni auto. Qualche novità sul lusso, mi sembra oggi tutto debole. Sì, molto debole oggi il lusso, come dicevi tu prima, Ferragamo ha perso più del 2%, anche Tod's, insomma, e Luxottica, tutti i titoli assimilabili al settore hanno perso, sono stati tra i peggiori. Per quanto riguarda UX invece, insomma, qualche realizzo era più che fisiologico. Ancora, dicevo, gli energetici deboli, Snam più meno 0,70, poi Tenaris pure, Terna meno 0,60, Intesa perde lo 0,6 e Pop Milano lo 0,5, dicevo di Fiat più 1% dopo i dati sulle matricolazioni auto di ieri, bene anche Telecom più 0,40, A2A più 0,40 come Unipolsai, ST Microelectronics più 0,47, Autogrill più 0,70%. Grazie. Un attimo, migliori e peggiori. Premuda più 20,40, IKF più 16, Media Contact più 15. I migliori, i peggiori, Poligrafici Editoriale meno 5, Poligrafici Printing meno 4,80, Digital Brothers meno 4,70. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori sulle 24 ore. Are you with me? Are you with me? Cambiamo tema, il titolo è facile, vacanza per pochi, in realtà è facile perché è una delle previsioni degli albergatori, niente vacanze pasquali per la stragrande maggioranza degli italiani. L'85%, 51 milioni di persone starà a casa, questa è la stima diffusa da Federalberghi, principalmente per motivi economici, poi ci può essere anche, diciamo, la variabile meteorologica, ma insomma nel 50% dei casi il motivo economico, poi nel 22% familiare e di salute nel 17%. Adesso non voglio rubare spazio alla rubrica sul meteo, le temperature si abbasseranno di 6-7 gradi, ma non è questo il punto. Il punto è capire che previsioni dà il mondo del turismo, diciamo degli alberghi italiani, e lo chiedo a chi è il direttore dell'Associazione Italiana Alberghi di Confindustria, 2500 aziende con 70.000 dipendenti e complessivamente 5 miliardi di fatturato. Dottoressa Barbara Casillo, buonasera. Buonasera. Anche a voi risulta una fetta così forte di italiani che resterà a casa. La Coldiretti oggi ha diffuso un dato sugli agriturismo, sono 300.000 gli italiani che nel giorno di Pasqua si recheranno in un agriturismo. Comunque la tendenza, dottoressa? Ma gli italiani sono purtroppo una componente timida del mercato ancora adesso, è vero che stiamo registrando un leggero recupero ormai da qualche mese, certamente il mercato per ora è trainato dal turismo estero. Rispetto a Pasqua dobbiamo anche dire che è un po' difficile fare un'analisi, perché di solito ci si confronta lo stesso periodo nell'anno precedente, e l'anno scorso abbiamo avuto una congiuntura estremamente favorevole, vedeva Pasqua subito a ridosso di 25 aprile, 1 maggio, quindi sicuramente è un paragone che non possiamo fare. Se dovessi dire in una sintesi quello che un po' è la sensazione dei nostri operatori, direi calma piatta, cioè non registriamo un arretramento rispetto ai trend che stiamo vivendo, però certamente non ci sono balzi in avanti in questo momento. Beh, difficile, adesso è vero che i consumi, la spesa delle famiglie è in leggera ripresa, ma con le botte che ha ricevuto, difficile che ci fosse proprio un balzo in avanti. Questo vale anche per gli stranieri, dottoressa? No, appunto, io mi riferivo a questo. Gli stranieri stanno in leggera crescita, direi costante. Chiaramente noi monitoriamo con attenzione particolarmente il settore upscale, che è quello su cui il turismo... Il settore, mi scusi? Upscale, diciamo le 4-5 stelle. Ah, ok, la parte più alta dove tendenzialmente molti stranieri vanno, anche se non tutti. Però insomma, non tutti, no, assolutamente. Il mercato i turismi sono pieni di stranieri. Però. Sì, quello ancora. Però diciamo, voi monitorate la parte, diciamo, che si direbbe big spend, di chi ha un buon portafoglio di spesa, ecco. Sì, ecco, è lì che dati arrivano, mi diceva, mi scusi? Lì abbiamo un trend abbastanza costante in positivo che stiamo registrando, devo dire, quello è stato il primo segnale ormai di un anno fa, di una prima inversione di tendenza rispetto a quello che aveva vissuto il settore negli anni passati. Diciamo che stiamo valutando ormai con una certa continuità da un anno a questa parte, una crescita leggera ma costante, che si mostra tale anche per questo periodo di Pasqua. Chiaramente il nostro territorio è molto diversificato. Sì, certo. Ecco, avete anche qualche dato a questo volevo arrivare, di carattere territoriale, o è ancora molto presto? Ma di carattere territoriale abbiamo solamente qualche segnale, ma di quelli che sono abbastanza, per fortuna, che confermano le attese, sono legate alle grandi città d'arte, che peraltro sono anche quelle in questo momento, col fatto anche della stagione, certamente quelle più all'attenzione del mercato. Però non abbiamo dei dati importanti. Certo, la montagna in questo momento è uscita dall'annus horribilis che ha vissuto l'inverno scorso, però questa situazione climatica che si è creata adesso certamente non ha aiutato ad allungare la stagione. Poteva essere interessante, ma non è stato. Allora, in un minuto, anche qui i dati saranno parziali, le indicazioni che ricevete sull'Expo, perché adesso Radio 24 inizia da domani un appuntamento che poi sarà un viaggio sui cantieri, che cosa è pronto, cosa non è pronto, ma insomma le prenotazioni, magari qualcosa si può già vedere, se uno vuole venire a vedere l'Expo a maggio piuttosto che a giugno, di solito l'albergo lo cerca già o no? Noi non stiamo registrando questa grandissima domanda sulle date dell'Expo, però devo anche dire che è un periodo molto lungo quello dell'Expo, quindi sarà un conto che dovremo fare alla fine, e come è successo nel passato per tutti i grandi eventi che hanno coinvolto il nostro paese, i grandi risultati sono stati dopo. Avere la possibilità di essere all'attenzione di tutti per un periodo di 6 mesi, come sarà l'Expo, poi dopo a seguire il Giubileo, sono di solito eventi che portano uno strascico molto positivo per il nostro mercato. Prego. Pronto. Sì, nel mercato, no, aveva concluso, mi scusi, perché è partita la sigla, perché stiamo terminando il tempo della prima ora. Dicevo, che tradotto è speriamo, nel senso che ci auguriamo anche noi che vi sia poi una coda positiva dei due eventi, in primo luogo l'Expo, poi ragioneremo sul Giubileo. Intanto grazie alla direttrice dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Barbara Casillo, il GR24, e poi parliamo dei dati economici di oggi, dell'Istat, che segnalano comunque una pressione fiscale tutt'altro che in calo nel 2014. Poi spiegheremo anche come leggere gli 80 euro. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Segnale orario vi è offerto da Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Voglio dire, avevo paura, certo, ma continuavo a pensare: questa è la verità. Intrecci, passioni, avventure, amori. Non ti lascio solo, ma oggi credo che tu abbia un appuntamento. Azzurri, portamelo qui! Per te un milione di volte! Audiogrammi, in radio come al cinema. Torna con nuove storie e nuove emozioni. Questo non è un buco. E che cos'è? Il posto dove si sta quando si muore. La domenica sera, alle 20:10. Pensiamo sempre che la fortuna sia ciò che non si ha. Audiogrammi, le più belle storie dei film, raccontate in radio. Anche in podcast su radio24.it. Focus Economia. Allora, professor Sapelli, la domanda, spero, le domande spero fossero chiare: che cosa sta capitando e che cosa si può chiedere al governo, oltre a quanto ha già chiesto sulle 24 credo, ore? Prego. Credo che bisogna partire da questa bella e sintetica ed esauriente e finalmente realistica e veritiera dichiarazione del ministro Padoan, che lei ha testé fatto ascoltare agli ascoltatori. Aggiungerei un dato che lei ha dato prima. Siamo a un punto bassissimo dei profitti dell'attività industriale. Naturalmente è l'investimento che crea il profitto, naturalmente, ma se non c'è aspettativa di profitto, l'investimento non c'è. Quindi direi che la cosa più drammatica è il crollo degli investimenti, che ha raggiunto ormai tetti vertiginosi. Questo non vuol dire che poi non ci siano dei sussulti, però tutti i dati strutturali sono negativi, perché non solo è diminuita la produzione industriale, ma questa è una cosa che mi preoccupa molto, e sono diminuiti anche i dati sulle esportazioni. I dati che abbiamo sulla riforma del lavoro, sulla situazione del lavoro e sull'occupazione sono contraddittori, ma come sempre capita, perché noi abbiamo dei dati, e quindi giustissima la richiesta di Confindustria che il professor Ricolfi. No, veramente è del Sole 24 Ore. Capisco che possa esserci una crisi, è del quotidiano Sole 24 Ore, per carità. Nulla di male, che lo chieda anche la Confindustria. Scusa, no, ma. Svelato il suo padrone, ma lo no, sanno no, tutti, ma, diciamo, padrone. Ma c'è una dialettica, servo padrone, anche, sì, nei giornali di Confindustria, dal punto di come di in quelli, come negli altri, certo. Va come bene. In tutti, quindi stesi, va bene. Sole, no, il problema che cos'è? È che i dati devono essere dati mensilmente. E poi bisogna dare una distintività, come è stato fatto, però adesso non bisogna essere troppo lì, tra quello che sono l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile. A me quello che preoccupa di più, anche se c'è già un breve, devo dire, il Job App, un punto positivo l'ha fatto riscontrare, piccolo, ma però i dati più seri dicono che una serie di contratti a tempo determinato si sono trasformati in contratti a tutele crescenti. Quindi un passo avanti. Sì, fermo restando che quelli partono dal 7 marzo, mentre gennaio e febbraio c'era in vigore solo la parte di decontribuzione, che vale solo per il 2015, l'abbiamo spiegato molte volte, perché ogni tanto qualcuno confonde Jobs Act con decontribuzione. Però prego. Benissimo, però voglio dire che quindi una situazione incerta. La cosa che io però ci tengo molto a dire che non bisognerebbe usare questi dati sulla fiducia delle famiglie o degli operatori. Sono dati che sono come le previsioni degli astrologi. Voglio dire, diciamo così, insomma, in un paese che ha un altissimi tassi di disoccupazione, sofferenza, disoccupazione, abbiamo bisogno di sapere la verità. non i dati sulle aspettative di fiducia, perché poi questa cosa sottostà ad una teoria, appunto la teoria economica delle aspettative, che ci ha portato a quel disastro quando Iscari capitalizzava più di Fiat e Amazon più di General Electric, e le aspettative, quindi la fiducia, facevano l'economia, mentre poi è arrivata la crisi. Quindi smettiamo di fare questi dati sulla fiducia, e mi stupisco che l'Istat continui a fare queste cose, sono cose da astrologi. Invece l'Istat fa un lavoro meritorio per quanto riguarda tutte le cose che ha detto lei. Quindi i dati sono negativi, la crisi continua, ci sono dei brevi sussulti di ripresa quando c'è da fare un po' più di gioco, perché un po' di magazzino bisogna pure averlo, dei picchi di consumo, gli 80 euro sono stati usati e vengono usati, però diciamo che siamo ancora in piena stagnazione da deflazione e non si esce dalla recessione. Questo è triste dirlo, ma bisogna avere ora, però, e compostezza. Adesso mi beccherò gli insulti di chi dice che sono un renziano, però dico, non suoi, ma insomma, a questo punto però il governo ha fatto il Jobs Act, può piacere o non piacere, ma comunque l'ha fatto. Certo. Ha fatto la decontribuzione che vale solo per il 2015, fino a 8.000 euro di contributi in meno. Ha ridotto un po' l'IRAP per le imprese. Adesso vedremo cosa presenterà il governo in tema di DEF, deve presentarlo il documento economico-finanziario entro il 10 aprile a Bruxelles, e cercando di evitare chiaramente le clausole di salvaguardia, quel capestro, quel nodo. Certo. Che scatterebbe in automatico dal 1 gennaio se non avessimo trovato le risorse, sono 16 miliardi tutti scaricati su IVA e accise, per cui vedremo anche la spending review. Ma a questo punto, mi scusi, io sì, certo che si può fare qualcos'altro, ma ci sono altri strumenti, oppure l'unico strumento, e io so che mi diranno che sono ripetitivo, è chiedere, è andare a Bruxelles e dire bene, con il petrolio a 49,50, con i tassi ai minimi di interesse, con il dollaro finalmente a 1,05, 1,08, c'è una finestra di opportunità, liberiamo gli investimenti, il nostro piano Juncker, sì, che pure Padoan ha detto che non si capisce perché gli stati debbano mettere i soldi se non possono entrare sui progetti, infatti nessuno sta mettendo i soldi. Io sono completamente d'accordo con lei, ma vede, sono perfettamente d'accordo con lei, come voglio dire, il primo fu il ministro, appunto, il ministro Siniscalco, quel breve periodo in cui il professor Finiscalco, suo ministro, fu il primo a chiedere di dividere dal computo dei deficit le spese per gli investimenti, per le infrastrutture, e fu un atto molto coraggioso, ma rimase inascoltato. E noi dobbiamo continuare a tenere questa regola. Cioè, il problema vero, però, vede, questo vorrei, c'è un problema politico: chiedere l'attuazione del piano Juncker di fatto vuol dire porre le basi per la ridiscussione di tutta l'architettura dei trattati e di Maastricht. Vuol dire rimettere in discussione il 3%, vuol dire rimettere in discussione il fiscal compact. Quindi lei capisce che le forze che invece vedono in queste misure un modo per rafforzare la loro economia a scapito soprattutto della Francia e degli stati del sud non cederanno mai. Cioè i tedeschi, gli olandesi. Lei dice ragione, bisogna uscire dal box, è come un bambino che vuole andare e camminare per strada ma è chiuso in un box. E finché ci sono quelle robe lì, lei ha perfettamente ragione. Infatti, cosa ci stiamo inventando? Una cosa gravissima. Cosa ci hanno rimproverato per costringerci a entrare nell'euro? Che l'euro ci avrebbe finalmente indotto a non fare più le svalutazioni competitive. Bene, adesso noi ricerchiamo una svalutazione competitiva continentale. Riponiamo le nostre speranze nella svalutazione dell'euro. Ma quindi allora vuol dire che qualcosa non funziona. Noi invece dobbiamo riporre le nostre speranze nell'aumento della produttività del lavoro, nell'aumento della domanda interna, quindi nell'occupazione, cioè nella cosiddetta domanda aggregata. Questo dobbiamo fare. E quindi lei ha perfettamente ragione, ma deve andare fino in fondo nel suo ragionamento. Se non si smantella, questo non vuol dire che bisogna uscire dall'euro. No. Bisogna ridiscutere tutto i trattati. Ma secondo lei perché il governo Renzi, che su questo si sta giocando la partita principale, perché diciamocela tutta, hai voglia della riforma del Senato, su questo poi, per usare la campagna elettorale di di Clinton, se non ricordo male, It's the Economy Stupid, cioè su questo ti giochi la popolarità, fine. Ma vedi, per, allora, vedi, perché anche... Renzi, adesso la Francia è in un casotto perché Hollande non ha più nessun tipo di consenso, Sarkozy sta risalendo, però dico, ma perché, io dico una cosa, dal punto di vista mediatico, poi Tsipras e Varoufakis hanno commesso molti errori, sono un po', certo, sono certo, un po' dei leggeri, però sì, indubbiamente un paese che conta pochissimo nell'area euro è diventato, sì, il caso, grazie, che hanno alzato un, certo, po' il tiro, vedi i debiti di guerra, certo, da Germania, certo, certo, ok. E questi sono veramente, la Grecia, col massimo rispetto, valgono forse il Lombardo-Veneto come fattura, come PIL. Il 2% del PIL. Allora dico, ma perché l'Italia, che sta facendo comunque le riforme, perché tutti riconoscono che il Jobs Act è una riforma, che il deficit... Secondo te, perché politicamente Renzi non va a Bruxelles con più coraggio? Chiedo. Perché c'è stato un arretramento culturale spaventoso, e quindi anche Renzi, che naturalmente viene da una cultura non così ordoliberista, così... banalmente liberista, crede nelle favole che ci hanno fatto, che gli hanno fatto credere quando gli hanno imposto quel tipo di trattati. Per esempio, il suo riferimento al blairismo potrà essere utile nella polemica contro la sinistra interna, io lo capisco benissimo, contro i vari D'Alema, i vari oppositori, però da un punto di vista economico è devastante. Il blairismo e il trentismo ci hanno portato a questa crisi. Questo è indubbio. C'è la liberalizzazione. Quindi questo implica che il nostro primo ministro deve essere meglio consigliato, e invece si fa consigliare, credo, da degli economisti che hanno creduto nella ricetta che ci ha portato alla crisi. È una cosa molto semplice di debolezza culturale di una classe politica che si è presentata alla ribalta con molti aspetti nuovi, ma che però è ancora intossicata dai danni della cultura pseudo-economica, cioè para-economica di questi ultimi 20 anni, che ci ha portato al disastro. Quindi Renzi si deve alzare un po' di più, non di altezza ma di concettualizzazione, e riflettere sul perché siamo arrivati a questo punto. Lei ha perfettamente ragione, io condivido le sue posizioni, ma per fare quello bisogna avere una statura intellettuale che te la puoi fare, ma devi ascoltare le sirene giuste, non le sirene sbagliate. Oh, dire che mi sento meglio adesso sarebbe eccessivo, però all'uccellaccio e alle sue uova, professor Sapelli, l'augurio anche lei, anche di una lei, buona Pasqua. Noi domani siamo in diretta. Grazie, noi domani siamo in diretta, ci mancherebbe, però la saluto adesso. Pochi istanti fa il premier Matteo Renzi ha confermato, nel senso che era già un'indiscrezione presente, che Graziano Del Rio sarà il prossimo ministro alle Infrastrutture e Trasporti. Con questa notizia vi lascio, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.